vuole lei, ma se lui sa che lei è una lui, sai che guai, sono sei, sono lei. Non c'è mai qualcuno che non lo sa. Lei vuole lui, ma se lui è una lei, poi lei cosa fai? Sei di guai, sono guai. Non so quasi mai se è un lui o una lei. C'è nel senso? È che sai, c'è un po' di ambiguità. Chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da Kappa e un saluto da Drago. Hola. Allora, ieri parlavamo di matrimoni in crisi, giusto? Beh, parlavi ieri, adesso basta, no? No, parlavi ieri, no, Drago. Però, no, ho capito. Parlavi ieri. Ma però volevo le guardie. Le guardie. Però volevo legare la questione del calo drastico dei matrimoni in America a un caso di asilo o da asilo che sta scuotendo il mondo del gossip americano, almeno, o quello dei teenager, cioè la presunta paternità di Justin Bieber. Bieber. Il bambino prodigio Justin Bieber. Justin bambino, Bieber. Ma insomma, 17 anni, e appunto può darsi che sia padre. E quindi. Vabbè, allora? Il fattaccio deve essere avvenuto quando ne aveva 16, però. È una cosa. Che fattaccio? Di cosa stai parlando? Vabbè, di un bambino senza padre che poverino vorrebbe crescere sapendo che suo padre è Justin Bieber, capito? Cioè mi stai dicendo che Justin Bieber ha messo incinta una ragazza e adesso fa il mascalzone? Così sembra. Allora? Lei ha 20 anni e si chiama Maria. Dice di aver avuto un rapporto sessuale velocissimo con Bieber nei bagni del backstage di un concerto. Velocissimo. Io credo che intendesse che dopo quella volta non si sono visti mai più e quindi è stata un flirt velocissimo. Secondo me può anche voler dire che è stato velocissimo. Ah, velocissimo. Vabbè, ma questo a noi non interessa. Quindi. Perché il resto invece interessa. Ma vabbè, che, diciamo che per molti genitori è stato uno shock venire a sapere che l'idolo della propria figlioletta 14enne in realtà è un insaziabile amatore. Velocissimo. Beh, velocissimo. Vabbè, allora è un vorace amatore. Velocissimo rapporto sessuale. Voracissimo e velocissimo. Vabbè, quindi voglio dire, non è una bella cosa. Comunque, sapere. Scusami, anche se ha solo 17 anni, questo Justin Bieber alla fila di donne, la fila di donne che non vedono l'ora di chiudersi con lui nei cessi del backstage. Vabbè, ho capito. Lui non fa altro che insomma approfittare delle occasioni. Sì, però sarà. Però intanto adesso deve fare il test del DNA per certificare che il padre del piccolo Tristan non è lui. Anche perché la stessa Mariah, la ragazza madre, ha già accusato altri due uomini di essere i padri. Ma in tutti e due i casi è stato provato il contrario. Ma non capisco. Cioè la tipa che accusa Justin Bieber, Mariah, ha già accusato altri due di essere i padri. Sì, altri due. Cioè, prima uno, poi l'altro. Beh, ma ovvio, dai. Insieme. E adesso tocca a Justin, capito? E se anche Justin è innocente, cosa fa? Mi sa che ha finito la lista dei possibili padri, mi auguro per lei, anche perché tre sono già abbastanza, no? Come dire. In un caso così, la storia dello Spirito Santo non se la beve nessuno. Nonostante il nome, Mariah. Vabbè, e tra l'altro la povera Mariah può anche essere accusata di violenza carnale su un minorenne, dato che all'epoca Justin aveva solo 16 anni. E quindi c'è anche 16 questo. Anni era consenziente. Non importa, un minorenne in teoria non può essere consenziente, sempre una vabbè, cosa allora che invece può essere una pop star. Vabbè, e i contratti che glieli firma? Glieli firma suo padre, no? E allora anche stavolta. Ma cosa anche stavolta? Mariah mica ha chiesto al padre di Justin prima di chiudersi in bagno con lui. È entrata in bagno, si è chiusa direttamente in bagno col padre di Justin. Ah, cioè il nonno di Tristan. Questo è molto divertente. È il nonno di Tristan. È vero, aspetta, è come Beautiful qua, perché si tutti con tutti. Perché Tristan è il figlio di Mariah e forse anche di Justin. È proprio Beautiful. Com'è la sigla di Beautiful? Fa così. Sei tu che la sai, dai, vai. E non è quella, però è una bellissima versione. È così la sigla. Oye, come va? Ma non è. Sei bianco, non sarà che sei malato. Borse in disfatta. Si salva. salvi chi può, aiuto. Il Down Jones. Sì, il Down, sì. Nasdaq, Down. Piazza Affari, ormai è tutto uguale. Nasdaq. Fa così. Drago. Nasdaq. E Francoforte, vogliamo parlare Francoforte. Anche Francoforte, direi. Quindi la grande crisi ha distrutto il mercato globale con la M e la G maiuscole e noi ci aggiriamo tra queste macerie. Sì, però noi reagiamo bene, perché adesso qui nel piccolo recintino del mercatino globalino abbiamo rinunciato ai soldi e pratichiamo il baratto. Per esempio, questo telefonino che squilla è frutto di un baratto. Lo posso scambiare con, per esempio, un altro telefonino che non squilla. Aspetta, questo, sentiamo chi è. Che ha la vibrazione. Questo qui è uno che, per esempio, vuole darmi degli occhiali. Aspetta. Pronto? Oh, ciao Dudale. Figurati, senti, volevo sapere, allora, per quegli occhiali come possiamo fare? Sì, beh, quelli che avevi messo via, e poi se ne hai degli altri li barattiamo con qualcosa, tipo io ti do un basso elettrico e tu mi dai tre o quattro paio di occhiali. Beh, Drago, degli occhiali in cambio di un basso elettrico. Beh, anche questo, anche questo è, come dire, baratto, fa parte del mercatino globale, anzi, e del della mercatino... nuova economia, la nuova economia. New economy. Vabbè, oggi ad esempio cosa c'è? C'è qualche offerta speciale? Oggi c'è una grande offerta di multiproprietà. Di quote di multiproprietà. Ma cos'è una multiproprietà? Cioè, vuoi il 20% di un appartamento a Los Angeles? Ma no, ma ho capito. Te lo tirano addosso. Ma ci credo, la multiproprietà. Il 20% dell'appartamento di Los Angeles è passato di moda da una vita. Guarda che non si usa più fare questo. Infatti, in questo mercatino globale non è che trovi proprio le ultime novità. No, scusa, se volete fette di casa in giro per il mondo, invece fatevi avanti con le vostre controfferte. Vabbè, ricordatevi che sono molto apprezzati i pagamenti in natura e quindi... Drago, ma sempre a parlare di quelle robe lì, ma smetti. Ma quali robe lì? Pagamento in natura nel senso di prestazioni, no? È prestazione, Tito, dai, continua. Ma come? Prestazione di carattere professionale. E ancora, insisti. Ma se siete artigiani, per voi è un gioco da ragazzi, ti aggiusto il cancello elettrico, in cambio mi dai un pezzo di casa a Ibiza, ed è fatta, sì, capito? Ma ho capito, ma non è questo lo spirito del baratto. Ah no, e qual è lo spirito del baratto? È nella vita di tutti i giorni, per dire, se ti svegli al mattino e devi andare a far colazione al bar, ma non hai soldi, cosa fai? Cosa dai in cambio al barista? Ma alla barista o al barista? Vedi? Vedi che no, vabbè, così Tito, è un casino pazzesco, perché ogni 10 minuti in pratica devi metterti d'accordo con qualcuno, perché dopo la colazione dove vai? Anche infatti, se devi prendere l'auto, vai a prendere l'auto, cosa fai? Il cambio del biglietto, cosa dai al biglietto? Ah, bel problema, dai. Io credo che in certi casi il pagamento in natura torni quindi prepotentemente d'attualità, perché insomma, scusa, ma se ogni 10 minuti devi metterti d'accordo, non è che hai sempre qualcosa da dare. Vai almeno con la barista, magari non col bigliettaio, ma la barista. Le persone sarie. Persone sarie 2011. Facciamo il punto. Allora, sempre più votati Margherita Hack e Corrado Augias. Si pronuncia un tête-à-tête tra questi due illustri non più giovani. Però attenzione, il nostro ascoltatore Paolo Antinori ha gettato un'ombra di discredito su Corrado Augias. E ce ne dispiacciamo, perché Augias stava davvero andando bene. Sì, vabbè, ma sono pettegolezze. Ma insomma, sembra che nel libro Disputa su Dio, scritto con il teologo Vito Mancuso, Augias abbia copiato interi capitoli da un altro libro scritto da Edward Wilson, intitolato La creazione. Quindi la sua sarietà è stata sariamente compromessa e messa in discussione, direi, vabbè, no? Capito, copiare i libri non porta mai bene. No. Hai visto il povero Foga? Hai visto il povero Luttazzi? Sì, vabbè, sono due casi diversi, però è vero che la serietà qui, insomma. Caro Augias, lei stava per diventare un idolo assoluto degli ascoltatori di Chiedo Asilo, ma adesso siamo costretti a rimettere il giudizio di nuovo nelle mani degli elettori. Ecco, e quindi da questo momento potete tranquillamente dire la vostra sulla Fair Augias. Fair Augias. È ancora Sario o non è più Sario? Scriveteci a Chiedo Asilo @radio24.it o sulla bacheca di Facebook di Chiedo Asilo Radio 24. Le persone sarie, non ci sono più. Copiano i libri e stanno in TV. TV va sempre bene. Sì, per chiudere, sempre. La TV, guarda, per chiudere va sempre bene.